La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta questo mercoledì 3 febbraio, anche il mio onomastico, va bene, è alle 16.30, primi 35 secondi qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia. Vi ricordo subito il numero di telefono per intervenire, 800 24 00 24, per le opinioni 349 238 6666. In particolare mi rivolgo agli ascoltatori sardi, a quelli intorno a Pescara in Abruzzo e a quelli intorno a Crotone in Calabria. Perché? Perché in questa puntata tentiamo di approfondire le ragioni o i torti e gli effetti della decisione annunciata ieri da Ryanair. Ryanair è diventato il primo vettore italiano, superando all'Italia, parentesi, con mia grande soddisfazione, perché penso che le low cost abbiano cambiato il modo di andare in aereo, e quindi, anche se poi molti si lamentano dei limiti per i bagagli e così via, hanno fatto capire come comprimendo i costi si può allargare il mercato e portare voli non solo attraverso hub ma attraverso scali regionali in tutta Europa, in tutto il mondo. Quindi io sono un sostenitore di queste formule e di questi modelli. Ma che cosa avviene? La notizia, lo sapete, di ieri: Ryanair annuncia di tagliare delle tratte, tra quelle che copre negli aeroporti regionali dove fa base in Italia o fa scalo in Italia, esattamente nei tre aeroporti che vi ho detto, quindi ad Alghero in Sardegna, dove taglierà dal prossimo autunno 8 rotte, e quindi pari al 60% dello scalo, 5 a Pescara, cioè il 70% di quelle che copre a Pescara, 3 a Crotone, che sono tutte quelle che garantiva allo scalo di Crotone. Perché annuncia questa decisione? Perché non va bene a Ryanair l'aumento delle tasse aeroportuali che è stato deciso con la legge di stabilità, un ulteriore aumento di 2,5 euro deciso dal governo, che porta quindi le tasse aeroportuali a 9 euro per passeggero, a 10 nel caso di Fiumicino. E ricordo a tutti che l'origine di queste tasse, per così dire, e del loro aumento in questi anni è la Costituzione per finanziare, perdonatemi, il fondo dell'aerotrasporto, che nacque a seguito nel 2008 del salvataggio pubblico di Alitalia per la famosa compagnia dei capitani coraggiosi, poi a propria volta salvati da Etihad perché non l'hanno saputa gestire, malgrado enormi vantaggi garantiti dallo Stato in quella circostanza ai privati subentranti. Uno di questi vantaggi sono una cassa integrazione in deroga totale rispetto alle norme della cassa integrazione generale per tutti coloro che perdono il lavoro nel nostro paese, sia rispetto alle norme di come funziona la cassa integrazione, sia rispetto ai massimali, perché io ricordo a tutti che la cassa integrazione per un lavoratore italiano, purtroppo per lui, qualunque che resta disoccupato, se lo sogna di avere una cassa integrazione che dura come quella per gli oltre 7.000 cassi integrati all'Italia allora, dal 2009 al 2018, e se lo sogna di poter avere, questo riguarda qualunque categoria italiana, il massimale ritoccato nel 2015 la cassa integrazione è di 1.099 euro, mentre invece per i cassi integrati all'Italia, in particolare per i piloti che avevano la retribuzione più alta, si arriva fino a 11.000 euro al mese di cassa integrazione. Parentesi, lo scorso anno la Procura di Roma formalizzò un'inchiesta nella quale risultò che diverse decine di cassi integrati all'Italia, tra i piloti che avevano una cassa integrazione superiore ai 3.000 euro al mese, con punte fino, alcuni di loro, a 11.000 euro al mese, nel frattempo avevano continuato a incassarla malgrado avessero sottoscritto contratti con altri vettori internazionali. Ecco, questo è il motivo per cui salgono le tasse aeroportuali nel nostro paese, un motivo contro il quale io mi sono battuto nel 2008 per quel salvataggio, e io sono per il mercato, quello, anche se favoriva i privati subentranti, era una distorsione pazzesca del mercato. Capisco le ragioni di chi contro questa tassa aumentata e che grava sui passeggeri e sulle compagnie, che quindi perdono ovviamente passeggeri, a favore invece degli attuali soci di una compagnia in cui è entrata Etihad, e questa è la mia opinione. Ma qui ci sono tante altre domande. Quando si assumono decisioni di questo tipo, si fa un calcolo dei costi-benefici dell'aumento di queste tasse, cioè della diminuzione del traffico, quando si colpiscono scali come quello di Alghero, su cui grava l'economia turistica di una regione che pure non se la passa molto bene come la Sardegna? Si fa un'analisi costi-benefici prima di prendere questa decisione? A. B. Nel caso della Sardegna, che gode proprio per la sua autonomia speciale e per il fatto di essere un'isola, di quello che si chiama il vincolo di continuità territoriale nei trasporti, decisione di questo tipo, che facoltà lasciano al governo regionale per poterne ovviare i danni sull'economia turistica e sulla capacità di assicurare collegamenti tra la Sardegna, il resto dell'Europa, ma anche la terraferma italiana? C. Terza domanda e mi fermo. Le altre compagnie, in particolare l'Italia Etihad, che ha sempre criticato Ryanair dicendo Ryanair viene negli scali regionali italiani perché i soci degli scali regionali italiani danno loro delle condizioni che non danno ad altri, cioè gli abbattono le tariffe per avere traffico. Questa accusa, che è quindi un'accusa dei concorrenti del Ryanair contro Ryanair, che accusa Ryanair di agevolarsi di prassi a propria volta anticoncorrenziale, ha del fondamento oppure no? Ecco, queste sono le tre questioni. Voi intanto telefonateci per dirci come la pensate, ma vado molto rapidamente perché abbiamo tentato di mettere insieme tre ospiti con tre punti di vista diversi. Allora, innanzitutto per la Sardegna e per capire che cosa aspetta i sardi, quindi da questa decisione annunciata da Ryanair, è con noi l'assessore ai trasporti della regione Sardegna, Massimo Deiana, che io ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E tra l'altro lei è anche un professore universitario di economia dei trasporti, quindi insomma non è un politico. Diritto dei trasporti. Diritto dei trasporti, ha ragione, però insomma voglio dire, non è uno che cade sulla materia senza conoscerla, per così dire. Poi con noi c'è il manager sales and marketing di Ryanair per l'Italia, Gian Alborante. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera a lei, grazie per l'invito. E uno dei nostri punti di riferimento fissi quando si parla di trasporti, cioè il professor Marco Ponti, che insegna economia applicata al Politecnico di Milano, scrive la voce sulla voce.info e sul Fatto Quotidiano e si occupa da decenni dell'evoluzione del sistema dei trasporti italiani. Grazie professor Ponti. Buonasera a voi. Allora, assessore Deiana, intanto, quando avete appreso questa cosa, voi che facoltà avete di intervenire per tentare di ovviarne le conseguenze in Sardegna? Che pensate di fare? Noi ci eravamo già mossi, perché ovviamente la notizia non è di oggi, la notizia di Ryanair è di ieri, ma la notizia della tassa è di un mese fa. Quindi avevamo già esposto al Ministero le nostre perplessità. Io in questo momento sono all'aeroporto di Roma, che rientro a Cagliari, perché stamattina sono andato immediatamente a parlare col gabinetto del Ministro, che ha già avviato una istruttoria per verificare la possibilità di esentare la Sardegna dall'applicazione, la Sardegna, Polità e per la Sardegna, dall'applicazione di questa tassa, per un motivo molto semplice, perché se da un lato può essere una tassa che disincentiva l'uso del mezzo aereo in alcuni casi, da noi non lo disincentiva perché non abbiamo sostanzialmente alternative, ma semplicemente aggrava di 5 euro il costo dell'aereo. Noi abbiamo calcolato che, essendo 6 milioni e mezzo i soggetti interessati tra residenti e non che viaggiano da e per la Sardegna con un volo nazionale o internazionale che parte dalla Sardegna, e basta moltiplicare 6 milioni e mezzo per due euro e mezzo, otteniamo quasi 20 milioni di sovrapprezzo che dobbiamo pagare. E quindi chiaramente noi su questo abbiamo aperto un'interlocuzione col governo, che devo dire, a fronte della nostra osservazione, aveva già preso in considerazione la possibilità di valutarlo. Ovviamente si tratta di interventi che erano stati previsti per far tornare i conti, la dico così. Sì, esatto. Per esigenze di cassa. Evidentemente bisogna trovare poi il sistema per farli tornare ugualmente, però come dire, ci stiamo lavorando. Ovviamente Ryanair ha preso a spunto anche questo elemento, che è un elemento di indubbia negatività per il business model di quella compagnia e in generale delle low cost, perché semplicemente gli altri vettori, quelli tradizionali, non hanno fatto altro che trasferire, esatto, l'aumento di 2,5 euro sugli altri. Chi ha un modello diverso invece ha difficoltà e quindi automaticamente ne patisce maggiori conseguenze. Ma da questo punto di vista, qui però non parlo all'assessore, parlo all'accademico, al professore, poi la stessa domanda che farò al professor Marco Ponti, ma decisioni di questo tipo in generale, sia che vengano assunti da una regione, sia che vengano assunti da un governo, quando si parla di trasporti, in generale di infrastrutture, opere pubbliche e così via, non dovrebbero essere corredate da un'analisi ex ante di costi, benefici e di come questa misura che serve per far cassa in realtà si traduce in disastri su economie di rete e territoriali? Sono assolutamente d'accordo, ma mi sembra che purtroppo questo non sia che uno dei tanti provvedimenti, delle tante misure adottate senza fare nessuna valutazione di impatto, né preventiva né ahimè successiva. E tenga conto che noi abbiamo un sistema, come hai ricordato, di continuità territoriale che prevede che si possano adeguare le tariffe, esatto, al prezzo del carburante. Bene, noi abbiamo fatto un adeguamento al ribasso di 5 euro sulla tariffa ordinaria perché l'abbattimento del costo del carburante ce l'ha consentito. Lei pensi che praticamente metà di questo abbattimento viene mangiato. Nessuno, ovviamente, nonostante questo abbattimento sia stato fatto con decreto ministeriale su istruttoria nostra, ma nessun pezzo dello Stato ha fatto una valutazione del genere. Ovviamente ci siamo noi che abbiamo l'obbligo, il dovere e l'onere di ricordarlo, di segnalarlo e di combattere, però è evidente che questo tipo di interventi contingenti volti a fare cassa poi lasciano morti e feriti per strada, e questo è uno di quei casi. Resti lì che torniamo poi da lei. Andiamo a chi rappresenta per noi Ryanair. Posso chiedere di iniziare dal fondo delle mie domande? L'accusa che le viene rivolta dal vettore, per così dire, tradizionale, cioè l'Italia Etihad, quella che voi siete bravi a, tra virgolette, convincere, non voglio dire a comprarvi, ma a convincere i soci, in particolare i soci degli scali regionali rappresentati dagli enti locali, che vi garantiscono condizioni migliori che ad altre compagnie non garantiscono, come prassi anticoncorrenziale. Questa accusa ha un fondamento per voi oppure no? Ma fondamentalmente non sono dei trattamenti particolari, nel senso di cose irregolari o meno. Tutto viene fondato su quello che è un accordo in base al traffico di passeggeri portati. Penso che qualsiasi compagnia aerea che riuscisse, come riusciamo noi, a mantenere frequenze anche plurigiornaliere su rotte da aeroporti anche minori o principali, con un fattore di riempimento che supera il 90% nell'arco di tutto l'anno, può tranquillamente ambire a qualsiasi tipo di trattativa agevolata, come possiamo avere anche noi. Io penso infatti che in quel caso i soci degli scali facciano bene il loro mestiere a garantire migliori condizioni a chi genera questi flussi, che significano flussi che poi generano, come ovvio, degli output aggiuntivi nell'economia, non solo intorno allo scalo e non solo nel turismo dell'area, ma in generale alle imprese, perché c'è anche traffico business che usa Ryanair, non è che fanno tutti come alcuni politici italiani che hanno il mega aereo personale. Quindi da questo punto di vista a me anche sembra un'accusa non troppo fondata, però chiedo a Marco Ponti, dal suo punto di vista invece questa accusa tradizionale volta dai vettori appunto non low cost, Ryanair e gli altri low cost, ha un fondamento invece secondo lei, professor Ponti? Ma molto debole, perché finora Ryanair ha le infinite cause che le han fatte, prevalentemente le ha vinte, proprio per le cose che ha detto il rappresentante. Questa è una libera trattativa, nel senso che viene garantito un certo flusso di traffico che non fa bene solo all'economia o all'intorno dell'aeroporto, ma anche all'aeroporto stesso, perché certo, l'aeroporto ha una quota non piccola dei propri ricavi dai bar, i parcheggi e una serie di altre attività. Quindi è diretto il beneficio. Se questo viene garantito su base pluriennale è un libero accordo. Giustamente, se un'altra compagnia ne offrisse uno migliore, non vi sarebbe nessun problema e Ryanair verrebbe spostata da questa compagnia. Un problemino c'è sull'esclusiva. Cioè, un conto è condizionare uno sconto a un traffico garantito e fin lì va tutto bene. Diventa un po' più complesso nei casi in cui Ryanair chiedesse un'esclusiva, cioè che non entrassero altri competitors. Su questo bisogna vedere caso per caso. Però generalmente finora Ryanair ha dimostrato che così non era in prevalenza. Va vista con qualche cautela, perché in alcuni casi ci può essere una limitazione eccessiva a meccanismi concorrenziali. Professor Ponti, nel nostro ordinamento, chi volesse immaginare un'impugnativa contro una tassa generale che grava sui passeggeri e che finisce quindi per esercitare un effetto asimmetrico anche a secondo del business model delle diverse compagnie, come ci ha spiegato prima l'assessore De Iani, certo. Chi volesse immaginare un'impugnativa dicendo una tassa di questo tipo per finanziare una cassa integrazione in deroga di un'azienda salvata attraverso soldi pubblici, avrebbe degli appigli nel nostro ordinamento per dire che in realtà è proprio questa tassa in sé che è mal congegnata e forse anche un po' illegittima? Io sono un economista, quindi non mi occupo degli aspetti giuridici. La tassa dal punto di vista sociale, secondo me, è iniqua e inaccettabile, ma ahimè, sulle tasse occorre una controazione politica, temo, non giuridica. È inaccettabile perché tutela una categoria già super tutelata, che gode già di condizioni straordinariamente favorevoli nel complesso. Io vorrei una tassa analoga, come ho già detto in questa trasmissione, per quelli che raccolgono i pomodori in Puglia, cioè se è una tassa che io posso eticamente accettare è per gli ultimi, non per i primi di una categoria di lavoratori. Diciamolo. Questo mi sembra una, che però ha caratteristiche fortemente di tipo etico-politico. Giuridicamente lo Stato può mettere le tasse che vuole. E sì, però giuridicamente c'è la, per sé è un problema. Giuridicamente però ho scritto anche un libro. C'è l'aspetto che questo, no, non c'è dubbio. Però giuridicamente sì, c'è l'aspetto che questa tassa nasce per garantire migliori condizioni sul capitale del diretto concorrente numero uno in Italia di Ryanair. Sì, ma formalmente no. Sostanzialmente sì, ma formalmente no. Proprio per avere, per ottenere il via libera dalla Commissione Europea, questa tassa riguarda tutti quelli che perdono il lavoro nel settore aereo. Esatto, è un'ipocrisia, ma formalmente inattaccabile, e quindi rimane quella che io chiamo l'arbitro del principe. L'arbitro del principe, in questo caso molto negativo proprio per gli effetti su tariffe basse. Chi ha una strategia di tariffa bassa, una tassa fissa, ovviamente viene colpito molto di più, esatto, da chi non ha una strategia di tariffe basse. Sulla continuità territoriale però qualche perplessità ce l'ho. Io vado in vacanza all'Isola d'Elba e è sussidiato anche i voli dell'Isola d'Elba, che sono usati da ricconi milanesi, il che lascia molto perplesso, e così è per molte altre. C'è persone che prendono la residenza in aree dove ci sono persone ricche, che prendono la residenza in aree dove ci sono queste tipi di agevolazioni per poterne godere. Cioè io sarei molto prudente, perché poi la continuità, l'isolamento di alcune può valere anche per aree, non solo per isole. Può valere anche per aree, però certo nel caso della Sardegna. Isolate. Allora devo sussidiare tutti gli insediamenti isolati italiani? No. E soprattutto non sussidierei i modi di trasporto più ricchi, sussidiamo i modi di trasporto meno costosi. Questo io che mi sono spesso occupato dell'evoluzione storica dei problemi di trasporti con la Sardegna, perché questo poi c'è un problema enorme che ha riguardato la diversificazione nel tempo dell'offerta delle compagnie marittime nei casi della Sardegna, eccetera, eccetera. È veramente diventato un problemone nella storia della Sardegna questo. Cioè, io capisco il suo esempio sull'Isola d'Elba, però nel caso della Sardegna questo ha comportato degli effetti devastanti, cioè più volte calcolati anche sull'abbassamento purtroppo del reddito medio pro capite, del prodotto, dell'export nel caso della regione. Ci torniamo tra un minuto perché strada intanto. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo tentando di inquadrare, di capire le conseguenze, le origini della decisione annunciata ieri da Ryanair di chiudere basi e aeroporti e rotte in Italia contro gli aumenti delle tasse aeroportuali decise dal governo, che finanziano questo fondo dell'aerotrasporto a favore della cassa integrazione di chi perde il lavoro nel settore, in buona sostanza i cassi integrati salvati pubblicamente per consentire ai privati di subentrare allo Stato nel 2008 nella disastrata compagnia ex monopolista pubblica, e poi a loro propria volta salvati da Etihad. Sentiamo rapidamente due ascoltatori e poi andiamo a fare una domanda a chi rappresenta Ryanair qui ai nostri microfoni. Allora, Giovanni da Brescia, prego Giovanni. Sì, buonasera. Io sono originario di un paese vicino a Crotone, parlo da Cliente, certo. Insomma, Ryanair. La comodità di avere questi voli sulla fascia ionica è innegabile. A noi capita spesso, a me, alla mia moglie, ai nostri familiari che vengono a trovarci a Brescia, di utilizzare questi voli. È una comodità innegabile, in quanto meno di un paio d'ore si riesce a raggiungere Bergamo. Le alternative sono veramente tristi. Ovvero, per quanto vi siano corse giornaliere di pullman, però si impiegano almeno 15-16 ore di viaggio. Ecco la differenza tra 2 ore e 16 ore. Sì, 16 ore. Gli aerei, i vettori che utilizziamo sono, constatiamo, quasi sempre pieni, e quindi più o meno sono 200-250 passeggeri, tantissimi anziani, esatto, che si spostano anche per questioni mediche, esatto, nel senso raggiungere gli ospedali. Ricordiamo che c'è un turismo sanitario verso Lombardia del Sud che è fortissimo. Allora, è chiaro che lei dice: mio Dio, fate qualcosa. Ed è la domanda che io giro a John Alborante di Ryanair qui in Italia. A quali condizioni è possibile immaginare che verso la fine dell'anno le decisioni che avete annunciato ieri non vengano a tradursi in realtà? Le decisioni prese sono già in essere, nel senso che la nostra programmazione dovrebbe subire delle variazioni in base a quello che abbiamo detto già a partire dall'autunno. È ovvio, come abbiamo detto in varie occasioni, che nel momento in cui il governo dovesse veramente fare marcia indietro su questa decisione, che troviamo assolutamente inaccettabile, e purtroppo incomincia un circolo vizioso anche di altre magari situazioni che potrebbero essere valutate in futuri mesi a venire anche per altri aeroporti, se il governo dovesse decidere di cambiare decisione, noi non abbiamo nessun problema a rivedere quella che è stata la nostra decisione. L'abbiamo fatto anche in altri paesi. Vedesi, ad esempio, l'Irlanda, che aveva una tassa in barco, chiamiamola così, simile, di 3 euro a passeggero. Nel momento in cui il governo ha deciso di togliere questa tassa dagli aeroporti irlandesi, noi, ad esempio, a Dublino, abbiamo incrementato per anno 3 milioni di passeggeri. È stata una promessa che abbiamo fatto e l'abbiamo mantenuta. Se il governo diminuisce le tasse, noi continueremo ad aumentare i passeggeri. Quindi non è soltanto la decisione del governo. A me, devo dire la verità, piace anche il fatto che ci siano aziende che in questo fanno gli interessi diretti del proprio bilancio, sì, non solo, anche però dei loro clienti e dei contribuenti italiani. Per questo mi piace la concorrenza, cari amici, che invece volete solo i grandi ex vettori nazionali, immaginate solo i grandi hub e credete che il traffico si riequilibri decidendo a tavolino tra Fiumicino e Malpensa. La politica italiana è 15 anni che è andata dietro questa illusione sbagliata. Alberto da Pescara, prego Alberto. Sì, io penso che la decisione Ryanair sia uno dei peggiori danni che possa subire la nostra economia. Da quando abbiamo tanti collegamenti con l'estero, Pescara ha avuto un incremento di flusso turistico dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Norvegia. Mai visti tanti stranieri da noi in vacanza e mai visto tanti abruzzesi in vacanza all'estero come da quando abbiamo questi collegamenti Ryanair. Mi auguro che ci ripensino e mi auguro che quei pagliacci che ci governano decidano, sono dei pagliacci, perché in campagna elettorale tante puttanate, caro Oscar, scusami la volgarità, tante promesse, tante fesserie. E poi le tasse aumentano, no. L'hai detto chiaro, Alberto, però io chiedo all'assessore e professore di diritto dei trasporti Deiana. Non è forse anche immaginabile la necessità di, per far sentire la vostra voce, voi avete una tutela maggiore, perché ho tentato di, solo con qualche accenno, di far capire che nel caso della Sardegna è più grave che per altri, il problema della continuità secondo me lì è fondato, è territoriale. Però detto questo, non c'è un problema generale di far pesare di più di fronte al decisore nazionale la rappresentanza anche degli scali regionali nel nuovo programma del Rio, invece in cui se ne scelgono alcuni che sono strategici nazionali rispetto agli altri? Beh, diciamo, nel piano nazionale degli aeroporti noi abbiamo un aeroporto strategico, uno degli 11 aeroporti strategici nazionali, che è Cagliari, e gli altri due scali che comunque rientrano nel novero degli altri 20 di interesse nazionale. Quindi diciamo siamo, da questo punto di vista, abbastanza ben posizionati. Però di fatto, quando arrivano decisioni come questa dell'aumento, voi lo apprendete come tutti noi dai giornali? Ma perché questa è stata una manovra, diciamo, di finanza generale. Vorrei solamente aggiungere, ma non per giustificarla, ma semplicemente per dovere di completezza. Certo. Che forse non è corretto del tutto dire che è una norma, è un fondo salva l'Italia, perché per esempio di questo fondo, come è giustamente stato ricordato, si possono giovare tutti i dipendenti. Sì, sì, delle... Ma per esempio sta per arrivare sul tavolo il Red Rationem per i quasi 1000 esuberi di Meridiana. Quindi voglio dire, non è solamente un fondo salva l'Italia, è un fondo, diciamo, che dà un privilegio ai lavoratori del settore, diciamo, il fondo volo, quindi è il fondo volo, coloro sì, dei quali, che poi sia giusto o sbagliato, mi sembra. Bene, diciamo che le condizioni garantite allora a chi beneficia del fondo volo rispetto a tutti gli altri cassintegrati italiani, secondo me sono un pugno in testa a qualunque ragione di equità, però questa è la mia opinione personale, perché insomma è ovvio, se c'è un limite generale che vale per tutti, lì non vale per ragioni che appunto si spiegano con quello che è avvenuto nel 2008. Comunque, cari frequenti volatori da parte di questi scali, bisogna che vi facciate sentire anche voi, questa è la mia banale impressione, perché altrimenti Ryanair va avanti e l'aumento della tassa è già deliberato, non solo i sardi ma tutti quelli che vengono colpiti da quelle simili. Organizzatevi dal basso e fatevi sentire. Grazie ai nostri ospiti, continuate con Radio 24, appuntamento di nuovo torno domani mattina. Oggi purtroppo, a causa di forza maggiore, non c'ero, alle 8:15 domani mattina con Alessandro Milan, attenti a noi due.